Sento basso basso. Allora, va meglio? Adesso sì, adesso Santiago 9. Un po' di vitamina, non fa male. Franco, sono Carlo, anche tu, finché non cambi antenna, lì posizione dell'antenna, arrivi più più anche qua. Ok, io adesso sto usando un'antenna boomerang Sirio, capito, un pochettino va meglio. Franco, buonasera. Aspetta, vi accordo un po'. Hola. Sì, però rispetto a prima ero abituato a ascoltarti con dei segnaloni. Perché praticamente adesso ho cambiato casa, non sono più lì e per adesso non ho la possibilità di metterla sul tetto, capito? E quindi ho dovuto metterla sul terrazzino, capito? Però già abito in una zona un pochettino alta e quindi quello mi aiuta. Comunque a Sassari, bene o male, riesco a parlare un po' con tutti. Sì, sì, siamo messi male tutti e due come antenne, dai. Io ce l'ho sulla finestra, tu ce l'hai. Vabbè, tu almeno hai l'altezza della da parte tua, io neanche l'altezza, qui sono zona monte basso proprio. Il segnale buono è 9, capito? La radio, diciamo, è una radio 4, capito? Però è comprensibile. Prima, come mi ha risposto, ti ho sentito, ma basso, basso, basso. Poi è andata meglio, capito? Io lo stesso, un piccolo aiutino ce l'ho, capito? Perché se no non è che vai tanto lontano. Anzi, prima stavo usando una di quelle antenne, come si chiama? Chiamano bazooka, ma era poco prestante, sorda, un sacco di stazionarie a 2, con questa le ho passate a 1 e 2, già va bene così, al primo colpo l'ho piazzata e va bene. Sì, dai, se non ci sono disturbi, propagazioni varie, non ho problemi a ascoltare. Ripeto, il segnale è molto basso, anche il tuo, quindi figurati, anche tu stai usando l'aiutino, se no neanche ci sentiremo qua. E vabbè, dai, l'importante è sentirci. Tu pensa che io sento Antonio al latte dolce e lui mi sente 9 più 20, perché evidentemente tu sei un po' coperto magari da palazzi e quindi, capito, né ti arrivo bene io e anche tu qua, diciamo, già mi arrivi bene come segnale, adesso mi stai arrivando 9, capito, quindi è buono, capito, ma anche la radio non è fortissima, però va bene, comprensibile. Vabbè, Sant'Arrangia, dai, cosa vuoi fare? Io per adesso mi sono aggiustato così, giusto per riprendere. Poi d'estate vedo un po' com'è in questo, io abito in una casa nuova adesso, ma no, non c'è un accesso al tetto, capito? Quindi dovrei chiedere il permesso a chi abita all'ultimo piano di accedere dal loro terrazzino, è un casino, capito? Quindi per adesso mi sono aggiustato così per fare quattro chiacchiere, così passare un po' il tempo. E ne ho fatto una nuova stazione, capito? Prima invece, dove ero prima, ero ce l'avevo sul tetto proprio, su una torretta, è un palazzo di cinque piani più la mansarda, più avevo 3 metri di tubo e l'antenna sopra da 6 metri, era una J-Pol di quelle della Smart Tech, 7 ottavi d'onda, quindi con quella andavo molto lontano e quindi mi sentivi forte per quello. Adesso ovviamente la radio è buona, quella che ho, posso regolare anche l'uscita eccetera, però è l'antenna, capito? A Gianni doppio room lo stesso, 9 più 20 gli arrivo intorno a quei valori lì, capito? Poi a Franco, che trasmette dalla zona stazione Lubrofetta, già lo conoscerai, Gianni, cioè non Franco, Gianni, praticamente a lui gli arrivo lo stesso, Santiago 9, 9, 10, capito? E quindi più o meno, dai, un po' riesco a parlare con tutti. Adesso ho acciuffato anche a te, bene così. Sì, sì, ho sentito la chiamata, io intanto accendo, almeno per scaldare un po' i motori, e quindi mi sono avvicinato alla radio e ti ho richiamato. Eppure vedi Gianni, il profeta, non è lontano da me, saranno linea d'aria a meno di un chilometro, 700-800 metri, non lo so. È che Gianni c'ha l'antenna sul tetto, più un palazzo da, non so se sia 4 piani, boh. Vuol dire molto, Lo credo bene, quando ce l'hai sul tetto vuol dire tanto, non molto. Se avessi io la possibilità di metterla sul tetto, qua c'è una zona ancora alta, io sono all'inizio di via Prunizzetta, capito? Proprio all'inizio, vicino a Marco, capito? Vicino a? A Marco. Ah, Marco nostro, Marcolino, sì. Da casa sua io sono proprio di fronte, vedo la sua antenna, capito? È che c'ho il palazzo, però quando scendo in strada passo dall'altra parte del marciapiede e vedo l'antenna sua. Praticamente con la mia antenna sono a un tiro di schioppo. Qua, infatti quando lui attacca qua devo abbassare tutto, se no sembra dentro casa. Ci credo. No, qua proprio vicino mi sa che non ho nessuno. Più vicino credo che sia Gianni, Gianni ha nel raggio di meno di un chilometro. Eh sì, Gianni è vicino, Gianni è nella zona di via Baldetta, ci sono pure andato a casa sua, non mi ricordo se in via Baldetta o qualche via parallela alla Baldetta, comunque quella zona là, capito? Sì, ieri addirittura ho acceso la radio facendo delle prove, ho sentito Nicola, ero almeno un anno e mezzo che non lo sentivo, Lupo Grigio, che lui trasmette con un portatilino da casa, dal terrazzino, dal poggiolo, e ogni tanto lo sentivo in passato, ero almeno un anno e mezzo che non lo sentivo, ieri sera è entrato e mi ha fatto anche piacere sentirlo, e ero da parecchio, dai. E ovviamente qua lui è nella zona via Mameli, via Principessa Yolanda, più o meno siamo vicino, e per quello che mi sentiva io lo sentivo anche abbastanza bene. Ogni tanto, dai, qualcuno già sta entrando sul 10, dai, così cerchiamo di rianimarlo un pochettino questo canale. Sì, ricordo Lupo Grigio, mi sa che sarò uno dei primi che l'ascoltava qui a Sassari, perché come dici tu usciva bassissimo, però senza disturbi riusciva a mantenerlo fuori, dai. Non avere anche il suo numero di telefono da qualche parte, mi aveva dato il numero. E vabbè, sì, l'altro giorno guarda eravamo forse una decina in ruota, non male diciamo per questi tempi. Eh sì, dai, ogni tanto qualcuno sta entrando, da poco anche Luca ha ripreso dopo tanti anni, in Viale Italia in fondo, e quindi sta entrando anche lui molte sere. Sì, ho sentito Daniele, si chiama, sì, Daniele, prima era anche lui, era zona Viale Italia se non sbaglio, adesso è a Itteri. Sì, solo che a Itteri prima ci arrivavo bene, io arrivavo tranquillamente, quando avevo l'antenna sul tetto arrivavo sino a Bonnannaro, Zieri facevo, poi sentivo Castelsardo, la zona di tutta qualche volta anche Olbia mi è capitato di sentire, poca roba però, perché lì non è che ci sia nessuno. E poi arrivavo tranquillamente ad Alghero, Porto Torres, Sorso, insomma tutti i paesi qua vicino, sino a Muros, capito che a Muros c'era Claudio, non l'ho più sentito, Chiodo Arrugginito se non ricordo male. E quindi riuscivo a parlare un po' non solo con Sassari, ma tutti i paesi vicini, capito? Itiri compreso. Però dai, adesso questa antenna l'ho piazzata ieri, capito? E già va molto meglio rispetto all'altra. Avrò modo di fare altri controlli adesso. Comunque a te ti sentivo poco e niente, perché con l'altra non. Invece adesso ti ho tirato fuori e questo è già qualcosina. Però adesso ci accontentiamo, poi in futuro si vedrà. Sì, io se non sbaglio ti ho sentito anche l'altro giorno, non so che antenna stessi usando tu, però ti tiravo fuori ugualmente, sempre senza disturbi, se inizia a salire la propagazione QRM è logico, qui i segnali sono molto bassi, con rumore ti perdo subito, però inverno bene o male c'è tranquillità. Sì, d'inverno già è tranquillo, c'è poco QRM, eccetera, dai. Comunque, dai. Qualche quattro chiacchiere ce le facciamo. Io adesso è che in questi giorni sono in ferie e sono a casa. Quindi stamattina l'ho passata quasi tutta la mattina in giro, perché c'era un amico che doveva fare la revisione della macchina, quindi ha dovuto lasciare la sua macchina e ritirarla a mezzogiorno, quindi intorno alle 9 mi ha chiamato e se lo accompagnavo doveva andare alla casa della chiave per fare una copia sempre di una chiave di macchina, e quindi sono stato con lui tra una cosa e l'altra, sono rientrato all'ora di pranzo e niente, adesso poi mi sono messo a fare un po' di pulizie in casa e niente, adesso sono in relax, seduto al computer, capito, e la radio a fianco e ho acceso pochi istanti fa, infatti ho sentito a te e ho detto vediamo se c'è qualcuno e niente, eccoci qua a fare quattro chiacchiere. Aspetta, che cosa di nuovo? Ogni tanto si sposta qualcosa qua, come mai? Avanti, che vuole entrare, Antonio? Ehi, io gioco, aspetto un attore! Avanti, dove sei? Bello, tu sei in macchina sicuramente. Cappa, in macchina! Eia, 994 qua! A Caniga sono! Cavolo, io c'ero stamattina lì a Caniga, vicino alla Mondialpol, e poi niente, poi sono rientrato. Mi sta arrivando bene qua, Antonio, No, Antonio già si difende anche in macchina, mi. Baseri, così, ma poi sentite un altro che stava abbagliando, non ho capito chi era. Ma forse ero io, sto facendo cammino. Ah, hai fatto finire di abbagliare. Alleluia. Lavorando stai, Antonio? Antonio. Perso Antonio. Riprendi Carlo. Anch'io tra un po' sto aspettando una chiamata. Appena mi chiamano devo scappare. Qua. E tanto io ci starò un pochettino qua al computer, quindi sono in radio. Se ti devi assentare anche senza salutare, figurati, non è un problema se devi fare qualcosa di urgente. Antonio sicuramente o si è spostato oppure magari sta guidando e non poteva rispondere. Antonio, siamo qua e quando vuoi chiama, già ci sono. Già lo so. Stavo guardando una cosa che mi dice un po' dimenticato. Non so chi userà mai i denti. È stato sedile, Non si può dire, non so. Ci siamo capiti, dai. Ma che bene ti sto arrivando. Guarda, 9.30. Ma il segnale è stabile, mi fermo proprio bello. Prima era attaccato, adesso è attaccato. Minchia, non lo cambia. Antu, a me mi sta arrivando 9.40, però sei in movimento perché oscilla, ma bomba è. Già lo so già. Molti sono? Qualcosa. Ho visto che c'era un po' di freddo giù, insomma. Secondo me la stufa è spenta. Ehi, mi stanno chiamando, ragazzi, riprendete voi, io devo scappare. Un abbraccio a tutti e due. Riprendi a tu. Scappa. C'era un po' di freddo, c'era. Ah, metti la legna nel caminetto, Antonio, metti la legna nel caminetto. Ciao Franco, già ci risentiamo, non ti preoccupare, già siamo qua. Buonasera. Nel caminetto, a tutto motore. Ciao Marco, buonasera. Carlo e Antonio, c'era Franco ma è dovuto scappare per una telefonata. Lei ha sentito. Ho sentito Carlo che hai messo la boomerang e hai avuto già dei notevoli miglioramenti, sono contento. E beh, d'altronde quella è, mi pare, la versione con lo stilo in alluminio e quindi lo stilo dovrebbe essere già intorno ai 270, quindi un quarto d'onda full size. È buono così, dai, immaginati quando avrai l'antenna sul tetto. Sì, sì, bravo Marco, è 275, così l'ho misurata, dicevano le istruzioni, 2,75 e poi l'angolo del radiale di sotto era 140 gradi e così l'ho fatto con un goniometro. L'applicazione mi sono scaricata per non stare a comprare il goniometro che non ce l'avevo, mi sono scaricato un'applicazione, comunque ho misurato ed è perfetto. Al primo colpo c'ho 1,2, 1,3, capito, però se la voglio migliorare magari quando avrò un po' di tempo cercherò di abbassarle appena appena, ma abituato a vederlo sopra il 2 già è tanta roba per me. E comunque sì, ho migliorato molto sia in ricezione che in trasmissione, Marco. Eia, poi quella era un'antenna della Sirio che io ho corteggiato per tanto tempo per installazioni temporanee e roba del genere, poi alla fine non l'avevo mai comprata. Per fortuna esiste ancora, la fanno ancora e fanno due versioni, la versione A è quella con lo stilo in alluminio e poi la versione V doppio che però ha lo stilo caricato ed è più corta, quindi rende meno essendo più corta. Mi sentite? Ciao Marco! Ciao Antò, sempre bel segnale. Vai Carlo. Sì, sì, Marco, hai ragione, hai detto bene, c'è la versione A e V, la V è quella più corta, ma visto che c'ero tanto devo mettere una boomerang. Ovviamente cosa ho fatto? Ho preso un palo da 2 metri, l'ho fissato alla ringhiera con delle zanche, dai, come le possiamo chiamare, dei cavallotti, uno alla base e uno a metà altezza, e quindi è bello stabile lì. E lei l'ho messa sopra quasi a 2 metri dal tubo, dai. E quindi non l'ho attaccata alla ringhiera ma è sul tubo. E comunque l'ho staccata un po', è messa più in alto, quindi se ti capita, già sei vicino, quanti. Se vieni a trovarmi anche in questi giorni mi fa piacere, ci beviamo un caffè o qualcos'altro. Io sono qua in Viale Porto Torres, sono. Sì, Antonio, ho copiato Viale Porto Torres, è sempre grande segnale, grande radio, anche se sei in movimento, te l'abbiamo detto anche l'altra volta, il tuo segnale è sempre buono in macchina. Sì, non solo in macchina, no, anche a casa. Ma tu hai un'antenna buona, Roma Giri, chissà. Ti manca Grado Sparviero a te. No, ma stai arrivando da Viale Porto Torres. Sei, lo so quanto sei lontano da me e non ti vedo. No, ciao Marco. Ciao Claudio, ben entrato. Eia, poi vabbè, la stufetta serve a scaldare anche l'abitacolo, però aiuta, là. Ma la stufetta è stufetta, ma Antonio anche lì con quell'antenna schiereggia forte. Per lui perché mi ha fatto piacere che ce l'abbia lui, almeno la usa, però quella per me rimarrà sempre la migliore antenna per la macchina. Non è ingombrante, è bella anche esteticamente, ma comunque c'è una meraviglia veramente, questa nera non ce n'è per nessuno. Ciao Claudio, buonasera. Ah, la frusta c'ha Antonio adesso, perché cos'è? Una settimana fa è venuto qua, aveva l'altra, è venuto da me a trovarmi e ho visto dal terrazzo che mi sono affacciato e ho visto che aveva l'altra, sì, ma me l'aveva accennato che l'avrebbe cambiata, quindi sta usando la frusta nera, se non sbaglio. Sì, chiaro, sì, c'avevo una frusta nera io, conservata con molta, che avevo tolto dalla mia macchina tempo fa, roba nuova, e l'ho fatto Antonio, quindi se la usa, è un'antenna che mi ha dato delle soddisfazioni allucinanti, veramente una signora antenna, ripeto, non è ingombrante, è bella esteticamente, ma c'è una resa micidiale. Vai Marco. Allora era tua, non era quella di che avevo dato a Natale che poi l'avevi rilevata tu, no? Era già tua quella. No, è quella mia, quella di Natalino, c'ha il mozzo diverso. C'è un mozzo diverso, non so perché, invece quella lì è proprio per l'attacco che c'è Antonio, capito? Svitata quella, infilata quella e farfallata. Eia. Guarda, la mia aveva il mozzo della LEM, era della LEM, sì. Io ho trovato addirittura un adattatore da snodo a PL e la mettevo su base magnetica. E ho fatto anche una foto, dopo me la cerco con calma. Certo, rendeva come un'antenna da un metro caricata, però niente da dire. E poi a quel bellissimo stube di taratura, quindi te la tari in un attimo in tutti i 40 canali 1 e 1, capito? Carlo, ti volevo dire, hai notato una cosa, che ci sono ancora i cassoni qua? Sì Marco, perché li ho anche usati, ce li ho, li vedo anche adesso sono affacciato, mi sto guardando, sì che ci sono, anche, e ce li ho anche appena più su di casa mia, sempre in via Prunizzetta, un po' più giù dell'edicola di via Prunizzetta, capito? Lì li hanno lasciati, lì vicino a casa tua, e invece qua sotto casa me li hanno tolti. E però ho visto che li hanno ridotti, perché prima ce n'erano 2 per la carta, 2 per la plastica, e invece li hanno ridotti a 1, capito? Hanno lasciato la campana del vetro e poi molti li hanno già portati via. Gianni mi diceva che entro il 2 e il 3 febbraio, che domani, dovrebbero portarli via dappertutto. Oggi è venuta mia figlia, eravamo insieme sino a dopo pranzo, che ha mangiato qua da me, e mi ha detto che anche in via Dauli hanno tutti tolti, quindi alla fine vedrai che nel giro di un mesetto scompariranno tutti, Marco. Sai perché te l'ho detto? Allora, ti dico che avevo ritirato i mastelli, io mercoledì ho ritirato i mastelli, 2 giorni dopo è arrivata una sulla chat condominiale un PDF mandato dall'amministratore, praticamente ci hanno dato una deroga in via eccezionale, siccome noi eravamo 13 condomini, era un palazzo da 13 condomini, ma non avevamo il posto per i carrellati, allora dice in via eccezionale ci hanno dato questa deroga per usare i cassonetti, quelli vicino qua, e quindi è probabile che non li tolgano, però proprio questa cosa che è arrivata a noi dice esclusivamente per il condominio in via Nizza 33, adesso io non so poi se qualche altro palazzo grande abbia avuto la stessa deroga, perché qua a fianco c'è un palazzo anche più grande del nostro con ancora più appartamenti, può darsi che se l'amministratore bravo gli abbia fatto avere questo permesso speciale tra virgolette, ecco. Adesso io i mastelli me li attacco, me li tiro a schiena, capito? Vai Carlo. E vabbè, tienili tu poi, il giorno che non ci saranno più i cassoni, a parte la deroga, perché comunque ho notato che puntata su quei cassoni c'è anche una telecamera sul palo della luce che prima non c'era, e siccome avevo sentito un servizio a Rai 3, proprio parlavano della raccolta differenziata di Sassari, no? E c'era la polizia municipale che dicevano che la città di Sassari adesso ha diverse telecamere in più che avevano installato da poco, e quella non c'era prima, o perlomeno io non l'avevo notata, però adesso l'ho notata che c'è, quindi molto probabilmente loro visioneranno anche chi butta e chi non butta e come si fa la differenziata, perché se uno sbaglia appena appena gli arriva subito la multa. Io sono arrivato a Quattorza, là, te la risentiamo. E tu, qua sempre forte, sembra in centro città, immaginati. Vai Claudio. Infatti, sembra proprio in centro città, Santiago 7 da Sant'Orsola, non è buccia d'arancio, 7-8, va bene Anto, d'accordo, ci sentiamo dopo. Io mi allontano un attimino e arrivo subito, ok. Bene Claudio, non preoccuparti, già siamo qua. Ciao Antonio, ci risentiamo stasera magari. Bene Neda. Sì Marco, ripeto, adesso io di plastica, di vetro ne faccio veramente poca, qualche bottiglia di birra quando magari viene qualcuno, mangiamo la pizza, ma per riempire un fusto di quei mastelli che ci hanno dato di bottiglie di vetro ci impiego un mese penso, qualche bottiglia d'olio che butti e consumi, però di vetro ne faccio poco, plastica qualcosina in più ma non tantissimo, capito? Quindi alla fine quello che scoccia più di tutti è l'umido, potevano lasciare i cassonetti solo per l'umido, capito? Tutti i giorni sarebbero passati e ritiravano e invece hanno tolto tutto. E io, tu parli di Via Pola sempre. Comunque caspita, io avevo guardato lo stesso, io telecamera non avevo mai visto, avevo visto il cartello predefinito che mettono vicino tutti i cassonetti che dice zona videosorvegliata, ma in realtà poi è giusto per fare da spaventapasseri, poi il fatto che l'abbiano messa è capace che guardino targhe di chi viene a scaricare grossi carichi di immondezza, capito? E non è detto che non facciano anche dei controlli, quindi io devo stare attento a farla bene. Vabbè, io la facevo già, diciamo, tutto, plastica, vetro, carta, cartone separato, no, l'umido, però adesso dovrò prestare più attenzione perché in caso di controlli magari controllano nella busta, se è sgarrato qualcosa magari qualche sanzione la faranno. Adesso comunque da, per adesso è, quindi è rimasto per noi, per questo condominio tutto uguale. E una ragazza qua di fronte mi diceva, ma io, dice, come faccio a sapere che il cassonetto è riservato solo a voi? Dice, ho detto, perché tanto, voi siete piccoli come palazzo, siete tenuti a usare i mastelli. Pensa che questa ragazza non sapeva nulla nemmeno, non sapeva niente nemmeno dei mastelli, dove ritirarli, nulla, è caduta un po' dal pero. E gli abbiamo spiegato un po' di cose ieri con un'altra del condominio. Lo so, molte persone non lo sanno, non tutti sono informati, capito? E quindi alla fine, secondo me, la tendenza sarà quella. Lasceranno là dove è necessario, però per il resto toglieranno tutto, capito? Ho visto che li hanno diminuiti, però è la telecamera che la vedo da qua, secondo me non c'era, o forse prima non ci avevo fatto caso, comunque c'è, ed è proprio puntata sui cassonetti ed è fissata sul palo della illuminazione che c'è proprio lì all'angolo, quel palo che ha una freccia direzionale sfondo blu e la freccia bianca, capito? La vedo da casa io, capito? Quindi vuol dire che è puntata lì, perché io sono andato a buttare la plastica, avevo una bustina di plastica e curiosando ho alzato la testa, ho detto vediamo se. E sotto casa mia, dove hanno tolto i cassonetti, è rimasto il cartello area videosorvegliata, ma in realtà era un cartello spauracchio, capito? Perché qua telecamere non ce n'è in tutta la via, capito? In via Pola erano, e quindi in via Pola non c'è nessuna telecamera, io ho guardato, c'è in un condominio, nel portone di un condominio interno, ma non è sulla strada, capito? Ed è puntata sotto il portone, poi non certo sugli cassonetti. E invece quella lì è bella grande, mi sembra anche nuova, capito? E se ti capita quando scenderai, buttaci l'occhio, già la vedi sul palo dell'illuminazione, capito? Comunque dai, per quanto mi riguarda, io lo stesso, se trovo dei cassonetti qua vicino butto lì, tanto non è che butto tutti i giorni, io quando riempio una busta di plastica la butto via, carta ne sto facendo poca lo stesso, essendo solo, capito, non è che ho questo grande questa grande produzione di spazzatura, capito, e i residui, la buccia della frutta, qualche avanzo di pasta, lì lo stesso metto in una bustina e se trovo un cassonetto dell'umido, bustine trasparenti come si faceva e come si dovrebbe fare, e la butto là, buonanotte, quando ce li tolgono del tutto faremo come tutti gli altri. Non so cos'altro dire, ormai questo servizio è partito così e adesso vedremo cosa dirà il comune tra 3-4 mesi, vediamo cosa dicono. Guarda, io so già come andrà a finire, no, perché hanno raccomandato su questa delibera, cosa, come la vuoi chiamare, no? Questa, che appunto bisogna essere scrupolosi nel fare come si faceva prima, io l'ho sempre fatta la differenziata, umido, plastica, anzi noi molta plastica per via delle bottiglie d'acqua, io bevo parecchia acqua. Diciamo, la facevo, sì, magari non ero troppo scrupoloso per il secco, no, magari qualcosina di che si poteva magari pulire e buttare nel secco, magari l'ho trascurato un po', in poche parole, ecco. Poi rispettavo gli orari, usavo le buste semi-trasparenti, eccetera, tutto quanto. E ti dico come già andrà a finire, che continueranno, perché anche oggi nel pomeriggio io mi sono affacciato un po', ho visto gente buttando buste a nastro nei cassonetti, non nei masselli. Secondo me continueranno ad abusare dei cassonetti dove buttavano aspirapolveri, cioè roba a ferrame, ferraccio proprio deliberatamente buttato anche nella carta, no? E quindi per colpa degli altri ci revocheranno questa cosa e ritorneremo, cioè inizieremo veramente a usare i mastelli, però per colpa degli altri e non certo per noi. Purtroppo è così. Sì, io infatti se poi levano mastelli eccetera, io tieni presente che tante volte non mangio a casa, secondo che turno ho pranzo o ceno in aeroporto, perché noi abbiamo servizio mensa, abbiamo i buoni pasto, capito, quindi un sacco di volte mangio lì e considera che facciamo 8 ore i turni da 8 ore e quindi io esco di casa, sto fuori di casa quasi 9 ore tra viaggio, andata e ritorno, il turno di lavoro, quindi come produzione io veramente ne faccio poca, d'estate ancora meno perché lì abbiamo dei ritmi belli sostenuti d'estate, molte volte finisco per dire attacco la mattina alle 5, finisco alle 13 e dico mi devo mettere in viaggio col caldo eccetera, allora dico chi me lo fa fare, utilizziamo i buoni pasto e dopo che timbriamo l'uscita ce ne andiamo in fondo al bar e ci prendiamo il vassoio, capito, ci prendiamo un primo, secondo il contorno, abbiamo la frutta, l'acqua e il caffè pure, tutto con un buono pasto e quindi molte volte mangio lì. Poi abbiamo diciamo un servizio mu che fanno hamburger, patatine, roll di pollo se vuoi cambiare, capito, e non vuoi mangiare, però c'è una cuoca che viene e cucina abbastanza bene, fa molte volte fa anche pesce, capito, orate con contorno di patate, con i pomodori, insomma fa un po' a volte roast beef, già troviamo un sacco di cose, quindi molte volte io non ceno, capito, oppure non pranzo e quindi a me già mi coinvolge poco essendo solo, capito, quindi anche di umido ne faccio veramente poco, comunque vediamo come andrà. Ascolta, il mio segnale ovviamente essendo troppo vicini a casa tua, guarda, adesso io sono col massimo, adesso metto al minimo, credo che non ti cambi niente, adesso sono al minimo. No, non cambia nulla, anche attenuando sei talmente vicino, guarda, sei talmente vicino che che proprio non è possibile vedere il segnale, è sempre inchiodato a fondo scala. E guarda, la tua antenna attualmente dovrebbe essere, siccome tu sei più in alto perché lì è in salita, la tua antenna dovrebbe essere già al pari di altezza della mia. Immaginati quando avrai l'antenna sul tetto, sicuramente mi supererai in tutti i controlli facendo le prove in distanza. Sì, solo che così io ho buttato un occhio, non so se tu usi quel Google Earth, no, che zoom e ho zoomato qua sul tetto e così a una prima vista delle immagini che fa il satellite non è che ci sono grandi spazi nel tetto, non riesco neanche a vedere dove sono le antenne TV e quindi dovrò chiedere comunque al condomino che abita all'ultimo piano, che già mi capita spesso, anche ieri mi ha chiesto una cortesia se caricavo l'aria nel polmone perché c'era poca pressione, quindi il polmone si riempie d'acqua, quindi devi bloccare la mandata principale, mettere in stop le pompe, praticamente fai scaricare un po' d'acqua e poi col compressore lo riempi e gli mandi pressione sino a 2 atmosfere. Dopodiché si ristabilisce un po' la pressione, perché il polmone si deve riempire d'acqua, ma non tutto, ci vuole anche una certa percentuale d'aria per dargli, capito, un pochettino di pressione in più. Quindi siccome io queste cose avevo imparato a farle nell'altro condominio, quando sono arrivato qua dice volevano chiamare l'idraulico eccetera, ho detto ma perché cosa, per aggiungere l'aria, ho detto ve lo faccio io, non c'è bisogno. Quando ci sono problemi, loro che sono all'ultimo piano, che ovviamente hanno più problemi di me con la pressione dell'acqua, se voi vedete che cala, mi fai un colpo di telefono e io, come ho un attimo libero, scendo, carico l'aria e lo faccio io, non c'è bisogno di chiamare l'amministratore che poi chiama il coso, l'idraulico e ti fa pagare 80 euro l'intervento, capito, quando è una cavolata. Io giù in garage ho anche il compressore, capito, col manometro, ho tutto, per cui poco mi costa. E quindi questo condomino, insomma, ogni tanto già mi cerca eccetera, e prima o poi, quando arriva la primavera, glielo dirò, gli dico: Asco, ma c'è la possibilità, io ho un'antenna sul balcone perché ho la passione della radio eccetera, ho tanti amici, ci sentiamo, a me serve così per fare 4 chiacchiere, di metterla sul tetto, così la levo dal balcone. Se lui mi dice se vuoi salire, allora a quel punto salgo, faccio un piccolo sovralluogo, poi mi organizzo, vedo un po' che spazio c'è e cosa devo prendere. Se lui è disponibile, io ci impiego poco a metterla sul tetto, mi auguro che vada così, se no male che vada, tengo questa, cosa vuoi che ti dica, bene o male riesco a parlare in tutta la città, fuori non lo so, non ho avuto modo, ma non credo di riuscire ad arrivare fuori, capito, perché però ci sono altri palazzi alti e io insomma sono al secondo piano e già un po' altino. Vediamo se è rientrato Claudio. Nulla. Antonio, attenzione Antonio. Vabbè. Ok. E quindi si vedrà, dai. Sì Marco, forse Antonio ha detto che rientrava, forse staccava tutto e doveva rientrare a casa e si farà sentire più tardi. Io lo stesso, adesso me ne entro in cucina a mangiucchiare qualcosa, mi bevo un bicchiere d'acqua e poi sono qua al computer in camera e magari ci sentiamo tra un quarto d'ora, 20 minuti Marco, se tu hai da fare lo stesso, non metterti problemi Ma in teoria dovrei, abbiamo preso una macchina del caffè lunedì, una macchina a caffè normale, no, per il caffè in polvere, perché l'altra De Longhi dopo 20 e più anni di servizio è proprio andata, abbiamo preso un'altra De Longhi, la devo ancora togliere devo aprire la confezione, piazzarla, rodarla e tutto, magari adesso mi dedico a quello, poi stasera magari se è 6:30 entrerà più gente, entrerà Gianni e tutti gli altri, da. Ok, stavo notando anche che il cielo è bello saturo, porca miseria, stamattina c'era il sole, stava anche bene a Piazza Liceni, fuori brezza. Adesso vedrai che piove stasera, no, potrebbe piovigginare. Cielo è bello saturo, almeno a vedere da qua, da questa finestra, bello bello coperto. Ok, va bene, mi sa che mi piaccio questa macchina a caffè, così la collaudo un po'. La spurgo un po' prima senza caffè, poi un caffè a vuoto, anche due, e poi proviamo. E finalmente ci facciamo il caffè come quello del bar a casa, che ero un po' la moca, mamma mia, la moca no, ormai è per me acqua quella della moca, ero abituato a quell'altra lì come quello del bar. Sì, io nell'altra casa avevo quella della lavazza, perché c'è mio nipote che lavora per la NIMS, lavazza con le cialde eccetera, e quindi me l'avevano data in comodato d'uso, poi l'ho dovuta restituire, gli ho detto sai cosa, che io me ne sto andando da qua, quindi quello era un contratto che avevo fatto io, quindi lo chiudiamo a fine contratto e ho restituito tutto e mi sono preso due caffettiere, una piccola da due e una che ne fa quattro, della Vialetti, in acciaio inox, e sono una bomba, capito? Lo fanno buono il caffè, buono, e quindi poi io poco ne prendo, capito? Quindi giusto per la colazione, a volte viene qualcuno, allora faccio la moca e faccio prima, capito? Per non stare con macchinette eccetera, perché poi più là vedo un po' se va bene anche a me, magari trovo una macchinetta piccola con cialde eccetera, me lo faccio così. Bene, dai, ci sentiamo più tardi, Marco, buon collaudo allora della mocca. Ok, ciao Carlo, ciao Claudio, se all'ascolto, Bombolo lo stesso, sei rientrato. E nel caso ci sentiamo più tardi, ok? Ciao a tutti. Ciao a più tardi, ciao Claudio se sei in ascolto, ciao a tutti gli altri. Sono in un attimo di bianco, una mezz'ora e poi rientro, comunque lascio acceso qua. Sì, ciao a tutti e due, ci sentiamo dopo. E a dopo. Sì, ciao. Attenzione, binario 10, cambio. Ciao Gianni. Ciao Carlo, vabbè Lilia, si lascio, dai, ciao. Oh, Carlo, mi ascolti? Yes, forte e chiaro. Sono a Prendanietta, cambio. Santiago 9, da me. Radio 5, buona, chiara e forte. Era Prendanietta a fare una commissione, là. Siamo andati al carrozziere con questa amicaia, perché è andata a casa di questa signora a lavorare, gli si è chiuso il cancello e le ha sfasciato tutta la macchina. Caspittina, roba di danno, mi spiace, niente, adesso eri 9:20, capito, è oscillante perché sei in movimento immagino, però stai arrivando forte e chiaro qua da me. C'ho il microfono sulla gamba per non farmi vedere, come arrivo di radio così? Guarda, adesso era 9:20 con picchi positivi. questa antenna va bene, te l'ho detto io, Carlo. È una bomba, si sente bene già. Qua se sei a Prendanietta, qua stai arrivando forte. Cavolo, adesso mi sono esattamente dove c'è la febbra, lo sai. Praticamente è Danita che poi esci dalla centrale del latte. Io praticamente ero da Cocco, dalla carrozzeria Cocco, quando sono partito, e poi adesso sono arrivato quasi alla centrale del latte. È perfetto, si sente anche senza interruzioni, senza alti e bassi. Prima mi sei arrivato 9, poi come ti sei spostato 9:20 tranquillamente. Gabagabo. E l'ecco come va? Questo sì che è un ecco. È bello, non è esagerato, già va bene, per la macchina è ottimo. Sono col microfono normale, Carlo. Microfono normale. L'ecco dell'apparato. Sì, il microfono va bene, anche l'ecco, dai. Non c'è problema, Gianni. Io sono qua a casa mia, al computer. prima sono entrato e c'era Marco, è entrato Claudio, Franco, insomma, però poi ci siamo un po' spostati perché avevamo delle cosette da fare. Io adesso mi sono risieduto qua al computer e niente, ho sentito la tua chiamata. Caffala, almeno uno risponde. Sì, adesso sono proprio di fronte alla rotatoria dove c'è la centrale, dove c'è la Lidl. Sì, sì, buono, arrivi bene. Ma stai rientrando a casa oppure stai lì in giro a fare compere? No, rientro a casa adesso, magari mi fermerò 5 minuti. Non ti preoccupare, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. O se mi era sembrato di sentire qualcosa sotto, capito, invece nulla, dai. Già siamo qua, Gianni, no, non preoccuparti, se devi fare, fai tranquillamente, poi ci sentiamo con calma anche più tardi. No, non devo fare nulla, sto rientrando a casa e c'è un bel di traffico, adesso sono entrato dove c'è la centrale del latte, lì quella zona lì, e sto andando verso tutto molto quella zona lì. Sì, sta arrivando sempre bene, e vuol dire che la zona di Predanieta qua già si sente. Stasera c'era anche Antonio in giro in macchina e l'ho sentito a Sant'Orsola, poi anche lui era verso Predanieta, poi era entrato a casa, lo sentivo anche Antonio in macchina, sta uscendo con un segnalone, capito, ma accende la stufetta ogni tanto. No, io stufetta non ne ho, sto uscendo solo con l'apparato, caro. Va benissimo, non so quanti ne abbia quello di watt, però sta uscendo bene. 30. A voglia, è come questo che ho qua. Cavaga. No, già va bene, questo apparato è bellissimo, anzi, peccato usarlo in macchina, dovrei portarlo a casa. Perché in macchina è sprecato. Esatto, quello è bello anche da tenere in casa. È bell'apparato, già me lo ricordo, l'avevo visto. Vabbè, io l'ho messo quando avevo la macchina nuova, volevo un apparato performante, bello, dai, da vedere. E avevo messo questo. Quindi ce l'hai sempre là in macchina, per non stare a spostare, eccetera. Comunque in macchina questo già l'avevo sentito altre volte, è sempre uscito bene come apparato, non ha problemi quella radio lì, è bella anche illuminata. Cappa, sì, illuminata, bella, quando schiacci diventa rosso, quando muli diventa azzurro lo smitter. Sì, me lo ricordo, me l'avevi fatto vedere, già me lo ricordo, esatto. Niente, io da ieri che sto testando quest'antennino che ho preso, dai, già mi sembra che stia andando benino, è meglio dell'altro. E sei riuscito con le stazionarie a metterla a posto? Eia, cappa. Sono in zona d'ombra, dai, c'è un capannone a fianco a me, quindi probabilmente non mi sentirai. È una zona d'ombra questa qua, sono in mezzo ai capannoni. Già ti sento sempre, Gianni, non preoccuparti, se hai da fare, eccetera, chiama quando vuoi, se devi scendere e fare qualcosa, già sono qua. No, linea diretta verso casa, e poi accendo da casa, dai. Linea diretta. Non mi devo fermare per niente, tanto ogni volta che mi fermo spendo. già stai andando bene, ma in teoria zone d'ombra dentro la città, se hai una buona antenna non già esci dappertutto, capito, con quell'antenna. No, era a fianco a due capannoni, capito? Era a fianco a due capannoni, quindi magari le onde non passano bene. Poi sono di quelli prefabbricati, immaginati. Mi, buonasera. Qui, Tony, ciao. Ciao Tonino, mi con Gianni facendo quattro chiacchiere. Gianni è in barra mobile, capito, ma a me sta arrivando benissimo, non so a te. Sta arrivando abbastanza bene, forte. Ma io sono arrivato poco fa a casa, mi sono fatto un bel paninaro, guarda, che stupendo. Cosa tu hai detto? Si è fatto un bel panino? Sata, tipo focaccina, portato di pomodoro, iceberg, olive capricciose e un po' di quel formaggio buono, spalmabile. Sì, dopo io e Tribute per stessa macchina. Eccoci con me. Buonasera a tutti, vi ascolto. Davvero entrato in qualche zona negativa, Tony. Hai fatto bene, quando hai fame è un bel paninozzo, ci sta pure. Ma non so che è scattato microonde, c'è vero, cado, buono, buono. Stesso, ogni tanto già mi diletto anche io. E stasera deve venire mio figlio, infatti gli ho detto, guarda, se vieni, siccome mi hanno regalato un bustone di arance e io non le consumo tutte, e quindi ho detto, è venuta mia figlia e se le dimenticate qua, allora ho detto, manda tuo fratello, e ho detto, è così, poi ho detto, si porta via quelle arance, se no poi va a finire che, ho detto, poi se le volete consumare anche a spremuta, perché sono di quelle biologiche, un mio amico che ha la campagna, capito, me le ha regalate, sono anche dolci, mi ha detto, quindi sono piccoline ma buone. E niente, stanotte mi sa che ci prendiamo la pizza se vuole rimanere qua, capito, così mi fa un po' di compagnia. Capo, almeno, ti fa un po' di compagnia, giustamente. Cicomino, in ascolto, ho sentato, stava mangiando, come al solito. Avanti Gianni. Sì, dai, presentala anche a me, Carlo, questo amico, che io sono ghiotto di arancia. E allora te le regalo anche a te Gianni, se le vuoi, sono piccole. No, ma figurati, sto scherzando. No, le ho comprate stamattina, Carlo, le ho il frigorifero pieno. Ma io ne mangio un bel, ti dico la verità, ne mangio due a pasto. Le arancia non mi devono mai mancare, il resto sì, ma le arancia no. Io sono così, con le pere, e a me piacciono pere, mele, capito? E poi la frutta estiva, melone, anguria e pesche soprattutto. Io penso c'ho il melone. Prima era sempre chimera, adesso melone. Melone è un po' di zuccheri. Io ho gli altri zuccheri. È un po' di zuccheri il melone, vabbè, ma è buono. Se è dolce è buono. E non tanto, dai, comunque è mangiabile. Come ho detto Gianni, io gli altri zuccheri, non vado a dire nulla. Aveva dei meloni mio cognato che erano anche troppo dolci. C'è un terreno, cazzo, qua, fa certi meloni così dolci, ma si prendevano la gola da quanto erano dolci. Un bel buoni. Io ho un amico che ha stato mai a palma i meloni. Meli grandi e squisiti, dolcissimi, buoni, troppo buoni. Me ne dava una casetta, c'erano 4-5 enormi proprio, e me ne dava 10 euro, poi non ci sono più senso, ho trovato un passo. Se ne rimani giù. Ma niente sì. No, guarda che domani, sono da dieta. Non ci credo domani. No, sono a dieta perché sono andato a fare le visite. Ho problemi. Ma chi c'è, Emanuele in radio? Sì, capo, c'è Emanuele in radio. Cos'hai, problemi di cosa, Emanuele? Mi sono aggravato con la schiena. Kappa. Uno non può mettersi controsenso con l'autotreno alla Conad con i fari puntati verso le macchine, cazzo, ti danno un bel fastidio. Ma è così, sì, contro la schiena. Ho detto che mi sono aggravato con la schiena, ho fatto risonanza, visite, balle varie. Cosa hanno riscontrato? Che torna quel problema lì, se no la negheggio è un casino. Tu mangi troppo? Ma che cazzo mangio troppo, che faccio il cazzo 55 kg? Guarda, 55 kg, se sono messo 3 settimane che ce ne trovo a te. No, no. Quanto pesi, Manuel? 55 adesso. Ehi, la goda. 115. Carlo. Sì, no, io non lo sento, Manuele, per niente. C'è un po' di QRM, ma non lo sento, mi spiace. Salutatemelo voi. Non so se lui mi senta, ma non credo. Sì, lui già ti sente, lo sente, Manuele? Sì, io lo sento, Carlo. Ti sente, Carlo? Lo sapevo che ti sentiva, lui sente a tutti. È che lui c'è l'antenino da piccolino. Ah, capo, allora è per quello. Va bene, Emanuele, se mi senti, salutoni, Carlo, ben sentito, anzi, ben non sentito. perché ho abbassato tutto lo squelch, ma niente, i rumori di fondo no, si coprono un pochettino, dai, speriamo di sentirci più in là quando sistemerò l'antenna sul tetto. Anche io ho l'antenna sul balcone adesso. Va bene, dai, riprendi Gianni, dove sei arrivato? Adesso sono quasi vicino a casa, ho fatto la rotatoria che c'è lì alla Budibudi, la rotatoria che porta verso casa. Allora arriva forte lì, Cosa? Arriva forte lì quella zona. A voglia. Ma io sento tutti bene, anche a Emanuele. Gianni, già stai arrivando bene anche a me, sempre ottimo segnale e ottima radio. Kappa, dai, va bene così allora. Va bene così. Trolla nera, trolla là. Kappa. Ebbene, già, qua c'è tutto lo scarico. L'ho lasciato così, dai. Devo sfasciare tutto. Avevo ragione io allora. Se non riescono a farlo, devo sfasciare, poco da fare. Ma adesso sto usando così. Ma no, sfasciare tutto, calmati. Perché se te fa cosa genere, loro non si intende. Si sfascia uno o due mattonelle al massimo vicino alla tua magneto. E buh. Sì, si fanno. Se tu cambi tutta la tubazione devi rompere tutto. Se tu fai la giunzione è un conto, ma se cambi tutto il tubo devi rompere tutto il filo, tutta la fila, il filare. Ma se tu è buono, ma se sono peso per la giuntura e basta, capito? Perché a te ti sembra il tappo, si è formato alla fine dove ci misura la braga. Comunque anche le mattonelle.